Sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto spasciare tutto e poi oltretutto ho ripetuto le chiavi appese incustodite sul destriere, senza paura alcuna il cuor del cavaliere. Naso brilla non è per la luna, mai visto tanto lustro da un'impalcatura. Il Siracusa segna esultano curva e tribuna al posto dell'architettura, mura mura le due al TV spazzatura. Adesso che mi ha preso in pieno il vuoto, mi tocca questa impresa a nuoto. Tummandosi all'acqua ghiacciata di Aretusa, tutto d'un fiato costeggiare la banchina, correndo e sudicio in un luogo nudo a scacchi. Brillandoci riprenderemo i sette scogli e con le pietre spegneremo porcherie pubblicitarie che ci hanno tolto buio ed eleganza. Coi baracchini delle gite accenderemo un gran falò, di lave calessini una mattanza. E ci riapproprieremo degli spazi e rifaremo bella la città, e impareremo ancora a fare cose con le mani. Finalmente, finalmente meno artisti e più artigiani. E ci riapproprieremo degli spazi e rifaremo bella, bella, bella la città, e impareremo ancora a fare cose con le mani. E finalmente, finalmente, finalmente meno artisti e più artigiani. E ci riapproprieremo.